I dromedari stanno soffrendo il calore estremo. Qual è l'organo più esteso del loro corpo, da cui potete iniziare a raffreddarli?